mio disco. Alla fine ti capisco, se non ti piace metti non mi piace, poi pace, tu non sei al pace, face, passo in inglese, fine come fine bene, così va bene. Fine come finest, il mio sound del paese, ed è palese che non passerò alla Rai, ok, fine, fine come linea piatta che segna la fine di una vita, chi la scrive a penna, chi la scrive a matita, resta solo una ferita, breve poi via sparita, un'esistenza cancellata, è tutto questa che serviva, fatica sprecata, speranza infranta, realtà bugiarda, verità nascosta. Fine, il tempo è scaduto come il tempo della chiesa, non ringrazi più Cristo alla fine di ogni pasto, hai la busta della spesa vuota a fine mese, fino a qui tutto bene, inizio della fine, gran finale. Questa è la fine dell'inizio, non ci abbiamo preso l'inizio, continuiamo all'infinito, prego stare all'esito, in alto il cuore, in alto il dito, chi ci dava per finito, non parla ma sta zitto, forse adesso già senti. Questa è la fine di 10.000 rime, non erano le ultime anche se sono le prime, questa volta dice che siamo andati a regime, 10.000 il cui stile non è sempre fine, scritte con la bile, scritte fra le file, scritte pure quando sono scariche le pile, la mia bic esprime il mio stile, testi buoni sopra i fogli ce n'è ancora pile, il mio mic imprime il vinile, il cd, mp3, wave sul tuo iPod, qualunque file, fonetica la rima è più facile, un po' infantile ma fa il botto del fucile, fuggire davanti al beat sarebbe stato vile, ci siamo ritrovati per combattere sto rap ostile, Alexito e Grego, due battaglie, stesso fine, qui finisce il disco che scavalca ogni confine. Questa è la fine dell'inizio, non ci abbiamo preso l'inizio, continuiamo all'infinito, prego stare all'esito, in alto il cuore, in alto il dito, chi ci dava per finito, non parla ma sta zitto, forse adesso già senti. Questa è la fine dell'inizio, non ci abbiamo preso l'inizio, continuiamo all'infinito, prego stare all'esito, in alto il cuore, in alto il dito, chi ci dava per finito, non parla ma sta zitto, forse adesso già sentito.